Ed ora l'ultima canzone, però prima volevo fare l'accenno di un grande successo dei Super Santos, grazie al quale siamo arrivati in vetta alle classifiche in tutta la provincia di Foggia. È un brano dal titolo Come stai? Mi è stato più e più volte richiesto da uno dei più grandi fans dei Super Santos, Tommaso, che saluto. Bene, Tommaso, ti faccio un accenno di questo brano. Come si sta a Londra? Come si sta a Bologna? Come si sta a San Severo, provincia di Foggia? Come si sta a Mosca? Come si sta a Roma? Come si sta a Trumaggiore, provincia di Foggia? Come si sta? Come si sta? Prendi questo frutto amaro, diamoci del tuo, oh yeah. Guarda quante nuvole laggiù. Prendi questo frutto acerbo, diamoci del tuo, oh yeah. Guarda quante nuvole laggiù. Anche per quest'anno prenderò in affitto un letto e un abajur in provincia di Foggia. Grazie.